si yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io sin da bambino ho avuto cani. Avevo cani quando vivevo in campagna, avevo cani che condividevo con i contadini. I contadini non volevano bene i cani, li tenevano legati al pagliaio, li prendevano a sassate e a bastonate. Io volevo bene ai miei cani perché erano i miei compagni di gioco. Ho avuto cani anche quando mi sono inurbato. Avevo cani molto vezzosi, molto ricercati, molto capricciosi, Scottish Terrier soprattutto, perché appartenevano a quella che allora era la mia fidanzata e poi diventata mia moglie. Ho vissuto una decina d'anni con Scottish Terrier dentro casa. Mia casa era un letamaio, però io amavo ogni puzza che quel cane lasciava a casa mia. Non avevamo ancora figli, ci sembrava che il cane fosse la ragione della nostra affettività comune. E questo cane, soprattutto l'ultimo degli Scottish Terrier, si chiamava Cassius Clay, mi dette molti problemi. Più volte sono finito in tribunale per colpa sua. Una volta io ero giudice a un concorso per cani e quando premiai il vincitore di questo concorso, che era un cagnolino bastardino, volevamo fare i politicamente corretti, quindi premiamo il più brutto, il più disgraziato, il mio vezzoso, lussuoso e impertinente cane si staccò dalla folla e staccò un orecchio a questo cagnolino. Fui denunciato dalla padrona e ebbi lunghi strascichi legali. Tenni questo cane con grande affetto e grande amore finché non sono cominciati ad arrivare bambini a casa mia, poi il cane mi azzannava i figli e fra i figli e il cane io ho scelto naturalmente i figli. Emergenza cani, nuova aggressione a Parma, un bambino di 7 anni azzannato alla testa e al volto dal cane della zia. L'ultima vittima è una turista tedesca di 24 anni, azzannata dall'ennesimo branco di cani randagi e ridotta in gravi condizioni. Catturati i cani randagi che hanno ucciso un bambino e ridotto in fin di vita una turista tedesca nel Ragusano. Una femmina è il capobranco, ora si decide la loro sorte. A Scicli continua la caccia al branco che ha ucciso un bimbo e ferito una turista. Il sindaco di Modica ordina abbatteteli, gli animalisti insorgono. Questo è il paradosso che vorrei analizzare questa mattina. Io che sono stato un maniaco del cane, io che portavo il cane a tolettare una volta al mese, io che per il compleanno facevo la tortina al cane con i bocconcini, con le candeline, io che compravo i cappottini, io che avevo la vanagloria di girare ai giardinetti con quel cagnolino che mi permetteva di conoscere tante altre signore con i loro cagnolini. Insomma, anch'io appartenevo alla setta dei padroni di cani urbani, quelli che oggi, ahimè, maledico in cuor mio, pur capendo la loro sindrome e il loro affetto, quando devo fare lo slalom fra i residui organici dei loro cani nel marciapiede di casa mia, quando adesso che sul far della primavera l'odore del ciclamino si mischia alla puzza delle cacche dei cani che naturalmente, se non stiamo attenti, pestiamo ogni giorno. Cosa sta accadendo in Italia? Da una parte continua a mantenersi questo importante, lussuoso e anche lussurioso mercato per i cani di città, che sono intoccabili, inalienabili. Guai a provare a dire qualcosa a una signora col cane che ti scodella la sua cosina proprio davanti al portone di casa. Ti guarderà con sufficienza, come se tu appartenessi a un mondo che non capisce, non comprende l'esigenza del suo cane. Ma la capisco, anche io sono stato come lei, anche io sono un disintossicato dall'amore urbano dei cani. E d'altra parte avete sentito le cronache, ho davanti i giornali, sembra che improvvisamente in Italia tra i tanti problemi sia quello anche delle orde di cani selvaggi, quasi avesse una loro volontà di branco, una femmina la capobranco. Benissimo, sembra di andare a tingere in memorie lontane, in realtà romanzesche, il mastino dei Baskerville, questa sorta di animale infero, inquieto, che era la rappresentazione ferina della cattiva coscienza di una dinastia importante quanto scellerata. Nel paese dei cani assassini, tra coprifuoco e nuovi assalti, troppa pietà verso i randagi, leggo poi vari pareri che ci sono sui giornali, ma guardi, ho pagine intere, cani pericolosi, altre due aggressioni, una donna azzannata in Abruzzo e un bimbo a Trento, cani killer, turista sbranata, abbatteteli, poi lo stop, caos e terrore, hanno ucciso anche il mio barboncino. E poi in realtà non soltanto i cani si mangiano tra cani, ma c'è storie di bambini, di persone, di esseri umani sbranati e uccisi. Anche oggi, sui giornali di oggi, ho letto quelli di ieri, la turista azzannata sulla spiaggia rimarrà sfigurata. La tedesca assalita mentre faceva footing a Scicli ha perso un occhio destro e ancora sotto shock. Bambino azzannato alla testa e donna morsa al braccio. Sono i killer a quattro zampe, vanno eliminati, non le vendette, i veri bastardi sono gli uomini. Questo è uno dei punti di vista nei confronti del rapporto uomo-cane e questo è un altro. Cucciolo, dove sei? Ci vedi? Uh-huh. Ah, eccolo, è laggiù. Oh. Ehi, cucciolo, ti abbiamo trovato, finalmente. Vieni, piccolo. Sara! Stai bene? Forza, andiamo. Me l'ha morso. Non è niente, sta tranquilla. Su, forza, ora andiamo. Ti ha morso senza che tu l'abbia provocato? Sì, è sbucato dal nulla. Probabilmente voleva difendere il suo cucciolo. Voglio accentuare il contrasto che sto per proporvi. Questo è un film, vedete, esiste una realtà romanzesca che impersonifica nella figura del cane le forze infere, ma non a caso custodia dell'inferno c'è un cane, non a caso Plutone è rappresentato in realtà da un demone canino, non a caso il cane rappresenta a volte l'irrazionale, il cane è una sorta di lupo addomesticato alla fine, il cane è tutto ciò che rappresenta l'incubo e la forza del nostro terrorizzato inconscio e la possibilità, ahimè, sempre labile, sempre indefinibile di poterlo controllare. La razza del male era uno dei tanti film che hanno i cani cattivi come protagonisti, un film del 2006, racconta la storia di un gruppo di persone in un'isola che è presidiata da un'orda di cani intelligenti che azzannano e uccidono gli umani perché vogliono essere i padroni di questa isola. Allora, questo è un versante e questo è l'altro versante. Clida Shampoo è uno shampoo concentrato adatto alla detergenza di tutti i tipi di pelo del tuo cane. Rispetta il pH naturale della pelle del cane agendo delicatamente. Disponibile in tanica da 5-10 litri. Prezzo euro 40. Cappottino Leo Dance for Pets. Per il vostro cane, cappottino in pile con gonnellina, ecopelliccia e cuore contornato da pietre Swarovski. Euro 90. Felpa Velour Heart. Tenera felpa con bordi e maniche in colore a contrasto e sulla schiena, grande cuore colorato con fiocchetto. Prezzo euro 35. Bandana Star Jack. Bandana con applicazione in jeans di bandiera britannica con stelline glitter. Perfetta con la t-shirt Star Jack. Perché oggi l'umanità civilizzata, ma limitiamoci all'analisi di ciò che accade alle nostre latitudini senza andare necessariamente sempre a avere sguardi che vanno fuori i nostri patri confini, perché noi in Italia in questo momento viviamo questa profonda schizofrenia. Da una parte il terrore irrazionale, belluino, per le orde di cani randagi che è stemprato in battaglie tra l'abbatterli e non l'abbatterli, dall'altra parte l'amore smodato, esagerato, feticista per questi teneri cuccioli di famiglia. Ve l'avevo detto, i cani di quest'isola non sono amici dell'uomo. Oh, hai paura di un cane? No, no, cani, cani, plurale. Quanti? Tre, ma ho l'impressione che siano di più. Avete sentito? Adesso mi credete. Oh! Non vogliono che stiate qui. I cani non vi vogliono. Andiamo, aiutiamolo! No, dobbiamo aiutarlo! C'è. Ieri su Repubblica c'è stata l'intervista a uno scrittore siciliano in una pagina dedicata appunto al coprifuoco, all'abbattimento, alle prese di posizione dei difensori dei cani randagi, agli azzannamenti, ai mastini inferociti che girano per l'Italia. C'è stato un parere di uno scrittore siciliano che conosce bene la sua terra, le contraddizioni e le realtà della sua terra, che da illustro osservatore appunto di questa realtà si è espresso con un parere apparentemente molto controcorrente: troppa pietà verso i randagi, rifacendosi a una cultura contadina, a un rapporto diverso, a una maggiore, se vogliamo dire, spietatezza ma concretezza nel considerare il rapporto tra uomo e animale. Noi lo abbiamo al telefono. Vincenzo Consolo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei probabilmente sarà creato molti nemici dicendo che in fondo ci vuole un atteggiamento più fermo nei confronti del fenomeno dei cani randagi che assalgono gli umani. Ma io credo di sì. Questo paese dove si combattono e si estromettono dalla società quelli che noi chiamiamo extracomunitari, che vengono qui perché fuggono dalle guerre, dalla fame, e quindi le respingiamo alle frontiere, alziamo dei muri per respingere queste persone. In questo paese si adorano i cani. E facevo il confronto fra quello che era il mondo contadino una volta, dove il cane aveva il suo ruolo ma non entrava mai nelle case. Quello che era curato era l'animale che serviva appunto per il lavoro contadino, l'asino oppure il maiale, eccetera. Il cane aveva la sua funzione fuori dalla casa. Oggi sia... Faccia la guardia al pagliaio, una cosa del genere, sì, almeno dalle mie parti. Faceva la guardia, sì. C'erano poi questi cani che si chiamavano cirmechi, che viene da Cirenaico, che erano dei cani magri, intelligenti, insomma, cani da caccia. Il Cirneco dell'Etna, è un cane abbastanza conosciuto. Sì. E quindi io deploravo, insomma, questo amore sviscerato per i cani, per cui poi i frutti sono questi cani randagi che assalgono le persone indifese, come è successo appunto a Scicli, nella Marina di Modica. Oggi ancora le cronache ci parlano di cani che hanno azzannato persone a Parma, a Trento, a Teramo. Insomma, sia che nell'estrema provincia come può essere Scicli, che nelle grandi città c'è questa venerazione del cane. Ma non trova lei, Consolo, che in realtà il pensiero comune, che è quello poi espresso dai giornali, che è un pensiero mediato, che non ha radici né nel mondo contadino né nelle realtà arcaiche, ma soltanto nelle letture metropolitane della realtà, associ troppo facilmente il cuccioletto prezioso, vezzeggiato e profumato che tengono in famiglia con le orde di cani randagi e selvaggi che in realtà nelle campagne ci sono? Quando le campagne vengono abbandonate, ci sono questo fenomeno, ci sono in Abruzzo come in Umbria, come in tutta Italia. È chiaro che se uno va vicino a loro viene morsicato. Sì, va bene, io credo che nelle famiglie si tiene il cosiddetto cane da grembo, ma oggi se in una città come Milano, dove io vivo, insomma, vedo c'è l'ora dei cani, che è il vespero, la sera, quando escono tutti con i cani per fare loro i bisognini, ma sono anche cani enormi, feroci, come Rottweiler o altri cani terribili, insomma, quindi non è più il cane da compagnia. Io capisco che ci sono dei cani utili, di quei cani che confortano i vecchietti soli oppure i cani dei ciechi, eccetera, però questo fenomeno oggi è un fenomeno allarmante, questi dei cani randagi che sono dappertutto. In un'estrema provincia come quella di Scicli, che è una delle zone elogiate da tutti i viaggiatori, insomma, una delle zone più conservate, nel Val di Noto, dove c'è il barocco di queste città molto belle come Modica, Ragusa, Ibla, Scicli, eccetera, e non ci si aspetterebbe un fenomeno come quello dei cani randagi che sbranano, che uccidono un bambino. Io lo trovo insopportabile tutto questo, e non c'è ente di protezione animale che possa giustificare un fenomeno come questo. Insomma, io l'ho scritto, insomma, fa parte ormai della nostra nevrosi, questo amore sviscerato verso i cani. Quindi, Consolo, proprio in conclusione, mi sembra, se ho capito bene il suo pensiero, anche il cane assume dignità e quasi parvenze di umanità quando vive a contatto con l'uomo e quasi in simbiosi con l'essere umano. Poi entreremo in merito a quanto questo sia giusto, sia sano, sia anche esagerato. Ma quando si riappropria del suo territorio, entra nel novero di quelle che vengono considerate delle belve, delle fiere, che normalmente sono sempre state abbattute. Sono i cani che non sono controllati, che vengono abbandonati. All'inizio delle ferie i cani vengono abbandonati, sia nelle città che in qualsiasi altro luogo, insomma. E quindi questi cani affamati diventano feroci. Non ci sono provvedimenti per chiudere questi cani nei canili, come è successo a Scicli. Insomma, io non so di chi è stata la responsabilità lì per questi cani randagi in questo luogo di vacanze, in questo luogo molto ameno, come dicono tutti i viaggiatori. Ma insomma, questo succede in città, ormai nelle campagne, nelle estreme province. Ecco, noi consideriamo, i dati sono del sottosegretario al welfare Francesca Martini, che in Italia sono quasi 7 milioni di cani, di cui 100.000 sono randagi, quindi comincia a essere una popolazione importante. È importante anche l'atteggiamento lievemente schizofrenico di noi esseri umani nei loro confronti. Grazie Vincenzo Consoli. Pensavo fossimo soli sull'isola. È sbucato dal nulla, i cani l'hanno sbranato, era pieno di sangue dappertutto. È una morte allucinante, ragazzi, allucinante, l'hanno fatto a pezzi. Quello che è successo non ha senso. Lo so! C'è ragione per cui dei cani si comportino così, mostrano i sintomi della rabbia, è vero, ma se fossero infetti sarebbero già morti. Allora che diavolo hanno? Ricordi il centro di addestramento? Quello dei cani guida per ciechi, sì, certo. Bene, e se avessero addestrato cani da combattimento? Pensaci, più o meno un anno fa il centro fu costretto a chiudere proprio in seguito a un'epidemia di rabbia. In questo caso, quindi, dei cani da combattimento che hanno contratto la rabbia, che cosa diventano? Dei feroci mostri bastardi. Ecco che cosa diventano. 800 24 00 24, anche voi sentite questa necessità di fare un punto, di chiarire cosa siano per noi i cani, quale sia il rapporto sano nei confronti di un cane. Possono essere contemporaneamente surrogato, succedaneo dei nostri affetti, del nostro desiderio di maternità, paternità, del nostro bisogno di compagnia e allo stesso tempo mostri inesauribili del nostro immaginario. Life Jacket. Bellissima giacca salvagente per il vostro cane, ideale per cani che vanno in barca o che amano stare a riva. Cuciture riflettenti, comoda di sera, ottima vestibilità e rapida presa in caso di emergenza. Prezzo euro 35. Cuccia Silver Star. Cuccia bicolore in ecopelle lucida con stelline glitter all'esterno e morbidissima all'interno grazie al cuscino in ciniglia trapuntato e imbottito. Morbida stella applicata con velcro all'esterno e gioco a forma di fiocchetto inclusi. Maniglia in tinta. Prezzo euro 100. Tutti tutti. Tutina per cani, modello in ciniglia con strass, euro 40. Attenzione, deve essere stirata al rovescio e lavata a mano in acqua fredda. Può essere dello stesso paese, a distanza probabilmente di pochi chilometri, ci sia chi compra la tutina lavabile double face per il cane e chi arma la lupara e sdegnato va per le campagne alla ricerca di cani da uccidere. Melog 2.0. Si amano i gatti di cani piuttosto che gli esseri umani, perché li puoi abbandonare dove, come e quando ti pare. Riccardo Alemanno ha composto all'istante, mandata via MP3, la sua lettura del nostro argomento. I cani si amano perché in realtà possono essere abbandonati, come invece non può accadere con gli esseri umani. Anche Paola mi scrive su Facebook, dice: lo scorso anno gli albanesi, un mese fa i rumeni, oggi i cani. I mezzi di informazione fanno a gara per trovare il nemico pubblico numero uno. Tranquilli, tra 15 giorni ci sarà un nuovo incubo, magari avremo i gatti assatanati o qualcosa del genere. Poi l'escalation da esseri umani e animali mi fa riflettere, almeno nella lettura della nostra ascoltatrice. Gabriella, buongiorno. Fammi intervenire. Dunque, guardi, io ho 71 anni, amo gli animali come amo le persone, ecco questo. Per quello che è accaduto, purtroppo, io dico ancora una volta, la crudeltà dell'umano che che rende crudeli questi animali lasciati a se stessi, come un bambino lasciato a se stesso, maltrattato, così chiaramente non può diventare... Sento abbaiare, a casa sua ci stanno cani, signore. Ecco, sì, questo è cieco, tra l'altro, a 13 anni ha perso la vista. Quindi è anche un lazzaretto di cani a casa sua. Sono venuto a abitare qui in collina, lasciando, insomma, facendo certe certi sacrifici. Sono 18 anni che non vado più. Sono andata lì 15 giorni, in questi 15 anni, sono andata al mare 15 giorni. Ah, quindi lei taglia il suo budget familiare a favore dei cani? Fuori campo. Io adesso ho 4 cani, raccolte nei canili, raccolte per strada, eccetera. E insomma, ho delle buone... insomma, sono cani speciali, nel senso che vengono trattati bene. Senta, Gabriella, ma esiste la figura... Gabriella, mi sente? No, vuol dire, esiste la figura come esiste la gattara, cioè la donna che dedica gran parte della sua vita all'assistenza dei gatti randagi, alla nutrizione, anche la canara, cioè le persone che assistono. Io so perché ho una madre che fa queste cose. Questo è una questione di pietà, come per le persone così. Io nel mio poco ho raccolto questi cani e mi danno... Ecco, ma com'è c'è questa scelta di... Ecco, le dico, è una felicità. Sì, ma questa scelta di... cani da grembo, tutti cani, meticci, eccetera. Sì, ma mica un insulto, cane da grembo, nel senso che... No, ma per dirle, ha capito, come ad esempio quando nelle città dove ci sono le persone che non raccolgono le escrementi dei propri cani, ecco, è un atto di irrispetto, di mancanza di rispetto proprio nei confronti del proprio cane, perché il cane dopo alla fine cosa viene? Viene odiato, viene fatto così, ma sono le persone. E in Sicilia, dove canili non pare che non ce ne siano, tra l'altro questi cani pare che fossero lasciati a quel signore che non so come li abbia trattati, quindi sono incattiviti maggiormente, a parte il fatto che ci sono qui anche nel settentrione dei canili prestolati non raccolti. Sì, però una cosa sola, scusi Gabriella, poi ci salutiamo. Mi spiega meglio il senso di poi mettere come in dei lager i cani? Io ho visto dei canili, ho visto colline intere piene di cani che abbaiano, molte volte anche in malarnese. Il campo di concentramento per cani, che tipo di secondo lei, di soluzione può essere? Del caso di Sicilia. Siccome io ho una gran pietà, piuttosto che chiuderli in canili che verranno ancora trattati male, eccetera, perché ovviamente non si può fare altro, ecco, io guardi, proprio per un senso di pietà, li addormenterei. Io i miei cani, quando sono stati male, che non c'era più niente da fare, li ho sempre condotti, prima l'anestesia, mi raccomando, e poi così, dolcemente, io li ho sempre portati alla loro fine. Quindi un'eutanasia per cani. Grazie Gabriella. Sergio. Sì, buongiorno, io volevo raccontare un po' la mia esperienza, ho 46 anni e sono cresciuto in campagna, no? E quindi so, grazie a mia nonna, a mio padre, il rapporto fra uomo e animale. Per fare un esempio banalissimo, anche il cane più buono, quando mangia qualcosa è meglio non avvicinarsi, no? Voglio dire, per fare un esempio più banale, io non so quanto nelle case di oggi i bambini piccoli sappiano questa cosa qui. Quindi è un po' una nevrosi che abbiamo noi. Io da questa esperienza le posso raccontare che adesso fino a 46 anni i cani non mi hanno mai aggredito, addirittura una volta 4 cani randagi, ero io, insieme ad alcuni amici miei che avevano dei bambini, sono andato avanti io e tranquillamente siamo passati, eppure ci abbaiavano, perché grazie a questo essere cresciuto in campagna so come rapportarmi ai cani. So, io penso però, guardi, non ho molti elementi per dare un giudizio esaustivo, ma che la questione di cui parlano i giornali è lievemente più grave. Ora, dove c'è stato un bambino ammazzato dai cani, dove all'ordine del giorno ci sono cani feroci, anche portati da dei loro padroni, che azzannano esseri umani inermi, forse non è più una questione di non sapersi comportare con il cane. Sì, però posso dire la cosa, nel senso che io condivido questa, come si diceva prima, la nevrosi d'oggi. Cioè noi stiamo parlando di cani, di cose, e le persone non sanno come rapportarsi al cane. Questo è il primo discorso. Sì, ma quando io mi trovo a un giardinetto, mi arriva un Rottweiler scatenato e mi azzanna, io posso... Ma io sono pienamente d'accordo che prima viene la persona e poi viene il cane, gli animali. Quindi io sono il primo a dire che in certe situazioni gli animali vanno soppressi. Sono il primo a dire, capito, che non è colpa degli animali, perché ci sono dei proprietari che sarebbe meglio non dargli i cani, voglio dire, però non ci può essere uno stato etico che dice tu non puoi avere il cane, in base a quale diritto? No, il sì, problema è la nevrosi di oggi, capito? Che purtroppo c'è, come diceva lei, che tutti vogliono bene al cane ma non sanno di cosa parliamo. La ringrazio, lei mi ha dato il fianco perfettamente per introdurre l'ospite che è in attesa da molto tempo, che è Giuseppe Neri, neuropsichiatra, vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, che l'ho tenuto in ascolto come se fosse accanto al lettino di un suo paziente, e vediamo se Giuseppe ci riesce a dare un punto dal tuo osservatorio. Io ho trovato che ci sia, innanzitutto buongiorno Giuseppe. Ciao Gianluca. Ci diamo del tu, perché ricordo Giuseppe Neri, il neuropsichiatra conosciuto all'aeroporto e da allora diventato costante guida nei meandri della psiche deviata della nostra trasmissione. Lui è soltanto lui, perché non ho grande fiducia in questa scienza esatta, ma è un mio limite, penso, Giuseppe. Senti, non Giuseppe... è esatta la scienza, sta tranquillo. Ah, beh, sono contento, questo mi conforta. Senti, però non trovi ci sia qualcosa che va assolutamente fatto un punto di riflessione? Noi viviamo una sorta di rapporto viscerale, quasi feticista, con i cani nelle città. Ormai i cani sono assimilati a esseri umani. Guai se osassi dire una parola in più riguardo l'eliminazione dei cani randagi, feroci assassini, mi troverei le persone con i cartelli e forconi sotto casa. Non abbiamo spesso, ma come sentire comune, un senso di pietà nei confronti degli esseri umani, come sia facile averlo anche demagogicamente nei confronti degli animali. E d'altra parte, da una settimana a questa parte, improvvisamente è emerso dal nostro immaginario il mastino di Baskerville, che sembra che si aggiri famelico per le nostre campagne. Come la vedi? Ma io penso che c'è una riflessione di fondo che mi ha stimolato Consolo prima con il suo intervento e anche l'ultimo ascoltatore. Cioè noi siamo, ne sono sempre più convinto purtroppo, un paese che pretende di mettere insieme ambizioni scandinave con realtà organizzative operative di tipo ruandese, cioè centroafricano, nel senso che è verissimo il discorso, io sono d'accordo, alleviare la solitudine, fare compagnia, gli anziani soli, nessuno lo discute. Il problema l'ha centrato, a mio avviso, l'ultimo dei nostri ascoltatori, quando diceva non si può fare un corso di abilitazione con rilascio di patente per possessore di cani. Però il nucleo fondamentale del problema sono un'altra specie animale, noi umani. E siccome noi umani abbiamo tantissimi limiti, oggi e qui in questo paese il possesso del cane soddisfa una serie di esigenze, cioè è un rapporto sostanzialmente unidirezionale, perché il padrone sceglie, seleziona, alleva, nutre questa piccola bestia che diventa dipendente da lui. Interpreta anche le reazioni del cane con un sentire tipicamente umano. Guarda, esatto. Mi guarda con affetto, è grato, è contento, è felice. È un perfetto strumento di identificazione proiettiva, cioè attraverso il cane lui comunica con gli altri umani, proprietari o meno di cani, attraverso il canale di comunicazione dell'interpretazione dei gesti, dei guaiti del cane. Però tu capisci che il cane, che dipende da noi per la quantità, la qualità, la frequenza dell'alimentazione che gli diamo, diventa qualcosa che è non soltanto una parte di noi, ma ci rappresenta fedelmente. Per cui in alcune parti della città in cui tu e io viviamo, chiamiamola per esempio la Chiara Vigna, ci saranno signore griffate, bionde, che scendono da SUV elegantissimi con un flat coated retriever, che non è altro che un oggetto di ostentazione come l'ultimo gioiello griffato. Guarda, ti posso dire una cosa? Ieri prendevo un aperitivo a Piazza San Lorenzo in Lucina con una mia collega. Sì. Si è seduto accanto a noi un signore lampadato, ridicolo. Abbiamo riso tantissimo delle sue bretelle, dei suoi pantaloni stretti, ma la donna che l'accompagnava era meravigliosa. Aveva un cagnolino con un guinzaglio Barberi, bellissimo, con la fodera degli impermeabili Barberi, tolettato che sembrava un piumino da cipria. E devo dire, lo portavano in giro con lo stesso orgoglio con cui lei portava la borsetta firmata, lui portava il suo taglio di capelli gonfiato, la sua lampada appena fatta e via dicendo. Ormai è assimilato a un oggetto di lusso che dà uno status. Assolutamente, però... capisci che in altri contesti degradati delle nostre periferie urbane, penso alle grandi città, non penso a Marina di Scicli, che tra l'altro è un posto bellissimo che conosco, perché tra l'altro dove hanno girato Montalbano, la villa di Montalbano, sì, certo, sta a Punta Secca e sta lì. Il problema è che se tu pensi alle nostre periferie urbane, ci sono soggetti che hanno come arma impropria dentro casa i pitbull e i mastini. Quindi il problema è sempre di noi umani, e è una protesi, come ami dire tu, esterna all'animale che ci teniamo in casa e che poi diventa colui il quale caratterizza il nostro modo di relazionarci agli altri umani. Quindi il cuore del problema sta sempre in noi, è solo un epifenomeno secondo me il cane con cui ci accompagniamo. Beh, basta farsi una passeggiata la sera nei luoghi degli aperitivi milanesi, vedere gli spacciatori, ormai i pusher che girano tranquillamente fra fotomodelle e signori impomatati, hanno tutto il loro bel cagnone accanto perché fa parte degli strumenti del loro mestiere. Paola, buongiorno. Buongiorno. Lei è stata zannata da cani? Sì, sì. Io abito fra la campagna romana e New York, in campagna, visto che abito... Beh, è un tratto largo di territorio. Sì, sono una global commuter. Però il discorso che, appunto, vivendo in campagna in Italia, ho i miei cani e un giorno andando a trovare i vicini, quindi erano cani, diciamo... Civilizzati. Civilizzati, anche se erano trovatelli messi insieme, e alcuni di loro, almeno perché non torno spesso in Italia, mi conoscevano, sono stata zannata dai cani dei vicini. Fra l'altro sono stata fortunata perché erano sotto il patio e non vicino alla piscina, perché non rispondevano al comando, perché oramai avevano fatto branco, e quindi non si staccavano da me, quindi mi si sono avvicinati i padroni, che erano più vicini del previsto, e con i bastoni me l'hanno staccati di dosso. Il problema è stato che, siccome il giorno prima, poi mi hanno detto i miei amici, costernati come chiunque in questa occasione, avevano già aggredito il padrone, e loro hanno un bambino piccolo, purtroppo con dolore di tutti, ma si hanno dovuto, senza che io poi avessi fatto nessuno, si sono andati al pronto soccorso, ma hanno denunciato, nulla. Però loro hanno abbattuto questi cani. Adesso, ripeto, mancando dall'Italia, non so qual è la normativa e se esiste l'obbligo, come c'era una volta, dei canili. Però o questi cani che non sono la dimensione domestica o glamour di cui voi parlavate prima, sono nella condizione di aggredire e di uccidere o comunque fare del male, vanno ricondotti alla ragione. O lo Stato, le regioni si mettono in testa di tenerli confinati. Oddio, non ci riescono a ridurre alla ragione gli esseri umani. Trovo che dare questo altro impegno, che rieducare i cani, è abbastanza impegnativo. Io no, posso confinarli in un canile, ha capito? Cioè, i cani randagi devono stare lì. Poi, se però non ci sono i soldi per fare nella realtà quello che in teoria dovrebbero fare, purtroppo i cani che si comportano in questo modo, cioè non sono più quella cosa batuffolosa cui noi... Sì, sì, ma guardi, io ho avuto tanti cani, ho avuto anche la necessità di far uccidere i miei cani perché erano malati in maniera irreversibile per non farli soffrire, ho visto uccidere i miei cani, sono stato morso da cani, una volta ho tentato di separare il mio cane, lo Scottish Terrier, infame e aggressivo, con il pastore tedesco dei miei genitori, e sto guardando in questo momento il set che ho ancora nel palmo della mano, quindi so anche cosa significhi essere morso dal proprio cane o dall'altro cane, non mi ricordo bene chi fosse dei due, feci l'incauta operazione di andarli a separare. Alla sua domanda posso rispondere: il mio cane me l'ho preso, me l'hanno tenuto in canile in osservazione qualche giorno per vedere se aveva la rabbia, poi me l'hanno ridato e sono stato quasi contento di vederlo incarcerato per qualche giorno perché ho molto sofferto. Giuseppe Neri, dimmi, ti faccio... Sembra una cosa stupida, adesso con questo mi rovinerò anni di onorata carriera. Dunque, quando mi morse il mio cane, mi ricordo, passai una notte in delirio febbrile perché mi fece veramente male, feci tutte le iniezioni. Ebbi una sorta di allucinazione, vedevo il mondo con la soggettiva del cane, cioè è come se camminassi e vedevo tutto a mezzo metro da terra. Cosa significava secondo te? Quanti anni avevi? Ma avevo avuto 35-40 anni. Beh, sarebbe stato meglio se eri più giovane, nel senso che... Probabilmente no, probabilmente il discorso si riferiva al legame, mi fa pensare, posso sbagliare assolutamente, che fosse più il cane con cui avevi maggiore dimestichezza, ma anche quello dei genitori, probabilmente era così. Sì, erano i miei cani entrambi praticamente. Esatto, per cui era un modo di entrare in relazione con qualcuno che ti aveva fatto del male, ma che era parte della tua vita, e forse guardarla attraverso i suoi occhi, alla sua altezza, ti rendeva più accessibile, più accettabile questo imprevisto sgradevole, perché essere morso non è assoluta, poi mi dicevi una mano. No, fu molto brutto. No, ti ho domandato questo per in parte entrare nello spirito di chi questa mattina potrebbe sentirsi leso nei suoi affetti più profondi. Anch'io ho avuto cani, ho avuto un rapporto viscerale con cani e anch'io sarei in grado di poter sostenere senza timore che di fronte a situazioni così gravi come quelle in Sicilia non credo che la soluzione sia quella della rieducazione dei cani. Ma ho a questo punto, salutando Giuseppe Neri, una persona che in conclusione della nostra trasmissione, negli ultimi minuti che ci rimangono, potrà darci delle istruzioni serie e concrete sul corretto comportamento tra uomo e cane. Manuel Codo, buongiorno. Buongiorno, salve. Lei è un educatore cinofilo comportamentalista della Dog Planet di Imola, quindi lei sa tutto su come è corretto approcciarsi tra uomini e cani. Io sono un improvvisato, quindi lascio lei la conclusione concreta di questa trasmissione. In tutto quello che noi abbiamo detto, da una parte l'esagerato feticismo e vezzeggiamento ridicolo dei cani, dall'altra parte la drastica soluzione sterminiamoli tutti, qual è la via giusta di mezzo? Beh, io ritengo innanzitutto che il cane sia sempre e comunque un cane, non debba essere trattato come un bambino o come un membro della famiglia. Il cane va trattato in maniera dignitosa, ma da cane. Ora, le alternative sono due. La prima è quella del classico cane che viene adottato da piccolo e al quale consiglio subito a tutti i padroni di iniziare un percorso insieme al cane per riuscire a interpretare meglio quali sono i suoi linguaggi e per riuscire a educarlo fin da cucciolo a quelle che sono le famose gerarchie di branco, per cui il cane porterà sempre comunque il rispetto a tutta la famiglia. Anche perché il cane vede l'essere umano naturalmente come un essere superiore e deve continuare a vederlo in questa dimensione. No, il cane vede l'essere umano come un membro del suo branco. Ora sta a noi educare il cane in modo tale che lui percepisca in me, in questo caso in uno dei suoi padroni o comunque in un membro della sua famiglia, come un suo superiore gerarchico. Il cane ragiona per gerarchie piramidali, ossia è proprio come se ci fosse alla base tutto l'insieme del branco e solo verso l'alto la parte dominante. Ecco, tutta la famiglia dovrebbe rientrare al di sopra di quello che è la posizione sociale del cane. Per fare questo non ci sono metodi stranissimi o questioni coercitive, semplicemente bisogna mantenere quotidianamente quell'atteggiamento che un capobranco, un leader, terrebbe all'interno del branco, e per fare questo purtroppo bisogna ricorrere comunque all'aiuto di uno specialista che possa insegnare alle persone come comportarsi. Di solito questo non avviene perché le persone pensano che il cane sia tranquillo, ma tanto lo cresco bene, ma l'ho preso cucciolo, e non è sempre così purtroppo. Tantissime volte va bene, tantissime altre volte non va bene. Ecco, in particolare certi cani, prima ho nominato Rottweiler, ma ce ne sono tantissimi che si vedono piuttosto minacciosi in giro. Ecco, in questo caso lei non proporrebbe una sorta di patente di corretta gestione, certo, di questi cani? Guardi, il mio punto di vista è questo. Io vivo nella mia famiglia con due Rottweiler e una bambina di 9 anni. Non ho mai avuto problemi. Però lei è il suo mestiere, chiaro. Io vedo assolutamente certo quattume in giro con questi cani terrificanti. Sembra quasi che lo stentano come se fosse una pistola. Lei ha assolutamente ragione. Molte volte chi compra questo tipo di cane è perché ha un suo problema psicologico e comportamentale e si deve dimostrare agli altri. Ma questo non è il mio mestiere. Quello che dico io è che tutti i cani hanno un grandissimo potenziale. Sono in grado di mordere e fare danni. Sarebbe limitativo obbligare solo chi ha certi tipi di razze, come dice il ministero quest'anno con la nuova ordinanza che ha cancellato la blacklist. Non esistono razze geneticamente pericolose o portate, esistono cani con potenziali più alti, ma questo è un altro discorso. Secondo me l'ottica giusta sarebbe quella di affrontare il problema cani come lo affrontano altri paesi dell'Europa o anche degli Stati Uniti. Ad esempio in Germania tutti i possessori di cani, tutti, hanno l'obbligo di frequentare un corso di educazione e dimostrare che con il loro cane non sono un problema. È quello che dicevo, una patente, qualcosa di... Assolutamente, da chi ha il pincher a chi ha il Rottweiler. Questo Senta, invece il problema ormai presentato in maniera quasi eccessiva nelle cronache quotidiane dei branchi di cani abbandonati e randagi, si parla addirittura di una sorta di idea, certo, romanzesca, la capobranco, si immaginiamo, certo, questa cagna che comanda i cani all'assalto degli umani. Ecco, lei come la vede? È un'altra cosa. Il problema del randagismo va un attimo ricollegato a quello che può fare e che fa lo Stato per non permettere questo. La prima cosa che sarebbe da fare, sarebbe una legge favolosa secondo me, è quella di mettere il cane nello statuto di famiglia, nello stato di famiglia, perché in questo caso non c'è più il rischio di poter abbandonare un cane. Tuttora oggi le anagrafe canine non sono ricche di tutti i cani che ci sono in giro, quindi non ci sono i controlli, nessuno mi ha mai fermato in tanti anni chiedendomi i documenti del cane o analizzando se il mio cane ha il microchip, eppure c'è una legge che obbliga a mettere il microchip. Questa è la prima cosa che secondo me sarebbe fondamentale per evitare l'abbandono dei cani, quindi responsabilizzare maggiormente le famiglie e le persone. Grazie, la ringrazio Manuel Codo, educatore di cani, ringrazio anche Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni e ci sentiamo domani.